Buonasera. Andiamo a controllare la radio, scusa questi controlli così un po' spessi, ma voglio capire se questa radio sta andando bene. No, sta andando benissimo, non è amplificata, cioè non è amplificata normale. Buona, ottima, stai arrivando con un... aspetta a vedere se ho inserito il... No, sì, un Santiago 910, una radio di 5, perfetto. Non è amplificata, forse magari un po' amplificata, guarda, così amplifica? Sì, così già amplifica. No, ma andavi bene anche prima, sì, era poco amplificata, diciamo, rispetto a come ce l'hai di soli. Quindi, guarda, ho aumentato un pochino. Ho aumentato un pochino, guarda a vedere se va bene. Perfetto, ti sto sentendo su, aspetta un attimo, ti sto sentendo su un Kenwood, quindi sei perfetto. Andà bene, segnale ci siamo, 10 watt, va bene, dai. 10 watt però non, sembra un po' poco come segnale. Vuol dire insomma poco. E con 10 watt cosa vuoi, che torno a 9.3? Perché di solito come arrivi, scusa qua, o meglio, con cosa stai uscendo di solito? Di solito uso il Pluto e con 2 watt fa picchi di 20, capito? Di solito uso quello, oppure uso il Galaxy Uranus che ha 10 watt di suo, ma il segnale mio è questo. Oh, ti ripeto, la radio sei ottimo, però il segnale mi sembra un po' basso rispetto al solito. Contraccambia un attimino, guarda come ti sto arrivando io. Allora, tu senza preamplificatore di antenna inserito, sì, 9 più 30. Senza preamplificatore. La radio come ti sembra? Aspetta, scusa. Non arrivi a 9.20, scusa, avevo letto male. Sì, la radio 5 è perfetta. Non arrivo a 9.20. E allora c'è qualcosa, che è successo qualcosa. Sicuramente, aspetta a vedere se è inserita bene l'antenna. Sì, questa mi sembra inserita bene. Oh, strano. Allora, sì, con il preamplificatore di antenna inserito, sì, 9 più 30. E senza preamplificatore di antenna, sì, 9 più 15. A picchi più positivi. Non so con quante watt stai andando. Sto usando il Kenwood. Sono con... 30 mi sembra. Con 30 watt. Aspetta che... allora, con 30 watt sei 9.15 e io invece sono... 9.10. 9.10 con 10 watt di portante bianca. Adesso te lo metto a 30 watt di portante bianca, come ce l'hai tu, Ora, adesso io sono a 30 watt di portante bianca, come ce l'hai tu? Com'è il segnale? Oh, sei a picchi di 9.15, 9.20 quasi. Ora siamo uguali, dai, più o meno. Più o meno, la radio è quella. La radio è quella, più o meno. Il watt che da questa, più o meno, gli dà 140. Tu? Sei sparito? Sto cambiando un attimo l'apparato. Aspetta un attimo, c'è una bassa. Guarda un po' come ti sta arrivando adesso. Adesso non arrivi a 9. Adesso ci dovrei arrivare un pochettino, guarda un po'. Adesso sei 9.15, 9 più 15. Adesso fai da 9.15 a 9.20 fischiati però, Adesso sei a 9.20 a picchi di 22. Bene, preamplificatore o no? Senza. Prova a modulare che provo a mettere preamplificatore e antenna. Hola, 1, 2, 3, prova. La radio sicuramente fa schifo. Confermato tu che la radio non è bellissima, sale a 9.40. Lo scattino, guarda un po', hola. Variato, è rimasto un subvariato. Devi abbassare un po' la radio perché non è bella, Aspetta un po', dici che così va meglio, guarda un po'. Così è molto più bella, molto più chiara. Se aumenta un pochino te ne mangia la radio. Appari Roger, aspetta che facciamo fare un altro scattino. Sei proprio al limite però, sei proprio al limite. A livello di potenza come sono? Guarda un po'. A livello di potenza quello lo vedi tu come sei. Io ti posso dire a livello di segnale che sei 9 più 20. Quella poi la potenza che stai usando la sei tu. La potenza di segnale intendevo, dai. Non ci siamo capiti. 9,20 di spaccato, 9,22 più o meno di piccola, non è che abbia questi grandi picchi di modulazione. Allora, io abbasso a 10 watt, neanche, 8 watt, e va bene. Adesso sono tutto a canna, Sono tutti i vati che toglie l'apparecchio? Dice sotto 3-4. Addirittura. Ma non è questo grande segnale allora. Ma è perché è ancora freddo, eh? Ah, allora ok. Perché non si è spostato di una virgola. Non si è spostato di una virgola. 9,20 ieri. E 9,40 con il preamplificatore d'antenna. No, dai, perché lì devo regolare un attimino, ho capito, tutto lì. Ma di oggi va. Qua sono nell'altro QTH. E comunque dai, diciamo che 9,20 è un buon segnale. Va bene. Sì, a voi va bene. Va benissimo. Va bene, ancora tu là non ci sei, non ti è arrivato niente? Niente, non è illuminativo. Scusa? Attenti, ma non è arrivato illuminativo ancora. Ah, positivo, ok. Guarda che c'è tipo una trombetta sotto. Che sta succedendo? Lo vedi un po' che c'è un bell'ARA 48 da vendere, modificato, se interessa qualcuno. Ma no, come sto vendendo il mio? Quanto lo stai vendendo? Tu stai vendendo il tuo? Io quello che ho nell'altro QTH. Il tuo cos'è? Verginello? No, negativo. Scheda Eco Cold e... boh, e non mi ricordo cos'altro c'è. Poi allora, vabbè, prendi il tuo prima, giustamente. Non so se l'hai già acquistato così, se l'hai fatto qui, com'è? Il doppio modulatore ne ha? Negativo, me l'ha venduto un camionista di Cagliari. Ah, ho capito. Ma il livello cos'è? BSX? So, qual è la differenza? Dai, ma ha aperto quell'apparecchio dentro? Per guardare, sì, ti ricordi che stavo regolando l'Eco Cold? Dentro ti sei accorto se c'è trimmer da regolare, a bobine, com'è, oppure a scheda, a microchip? No, negativo, c'ha tre trimmer da regolare sull'Eco. No, non mi sono spiegato bene. Sulla scheda madre, com'è, tutto a bobine, a chip, oppure com'è? Vecchio modello con i trimmer da regolare i componenti quelli vecchi, di vecchia generazione. Ah, ok, va bene allora, va bene. Vabbè, questo è fatto sul d'Italia. L'ho ritirato, forse un paio di mesi, neanche un paio di mesi, ma me lo voglio prendere, perché io ne ho già un altro anche, non è 48, però non me ne faccio niente di due, capito? No, io lo voglio vendere in previsione di vendere un po' di tutta questa roba che ho qua per comprare un buon apparato quadrimanda. Ho capito, capito. Certo, vabbè, ormai tu sei del lato campo, giustamente ti devi attrezzare di più della 27, già ti basta quello che hai là. Campo di patate sono, oh yeah. Te l'ho detto che per me non è cambiato niente, ma nulla, se non sono un attimino più tranquillo rispetto a prima. Vabbè, non ci andrai anche tu, scusa, poi dove fui a parlare, centro nominativo, giustamente, se no che senso ha prenderti la patente? Per tenere solo le radio non aveva senso. Guarda, io mi auguro che il giorno che la prenderai, perché ti ripeto, poi alla fine quello che consiglio a tutti è andare a provarci, perché ti rendi conto di quanto, tra virgolette, è semplice nel momento in cui studi due cose. Mi auguro che il giorno che la prenderai non sarai tu a mollare la 27. E forse, boh, non lo so, forse io ho un altro carattere oppure ho un'altra opinione. Io non prenderò mai la patente radioamatore, perché a me non piace fare radioamatore, hai capito cos'è la differenza? Non piace proprio fare radioamatore, non è un divertimento, non, cioè dici sempre le solite cose. Basta, non mi interessa fare radioamatore, tutto lì. Sì, ma il consiglio che ti posso dare io? Guarda, te la prendi la patente, dopodiché è ancora meglio, se non ti interessa poter dire io ce l'ho ma non ci voglio stare in certa frequenza perché non mi diverto, però stai tranquillo riguardo a la detenzione di determinate cose, benché tu non ne abbia, Ma non lo so, non mi interessa, non mi interessa, io c'ho un piccolo ricevitore, sono un SWL. E mi sta bene così. Ascolto, è per quello che te lo dico, perché ascolto molto, solo ascoltarmi a volte spengo perché mi fanno paura le cose che dico. Comunque tutto lì, non voglio criticare nessuno, sto bene 27, non ci butto 140 euro per prendermi la patente, solo ed esclusivamente per tenere le radio a casa. Le radio le posso tranquillamente tenere anche se sono in 27, le metto in vetrina e quando vogliono venire a controllare le radio sono spente, chi me lo dice, chi me lo vieta che non le posso tenere? A quello nessuno, prima dicevano che potevi anche tenerle attaccate, bastava che mettessi il tappo nella cosa del microfono. Il discorso che ho sempre fatto io, motivo per cui ho criticato determinate persone che non facevano altro che vantarsi delle cose che facevano, è che scagli la prima pietra fra gli attuali radioamatori e comunque tutti i CB, almeno uno, dico, a trovarne uno che non sia andato in frequenza dove non doveva, non esiste. Però dico, se lo fai, se fai la cagata e dopodiché te ne vanti, quella lì è la cosa peggiore che puoi fare, perché se ti stanno tollerando, perché lo sanno benissimo, perché noi facciamo ridere ogni volta che diciamo la scarpetta e la segretaria, ma secondo te non hanno questa proprietà di linguaggio che viene a controllarti? E allora il problema è che ti tollerano, nel momento in cui però le prendi in giro ti facciano i danchi. Non lo metto in dubbio questo, Arturo, io non lo metto in dubbio, tranquillamente basta dire un amplificatore, tanto inutile. Chi ti ascolta, chi lo sanno, cos'hai e cosa non hai. Basta non rompere le scatole, le cose bisogna saperle usare, non andare a dare fastidio agli altri, basta, tutto lì il discorso, tutto lì, perché tutti quanti abbiamo una scarpetta, tutti quanti abbiamo baracchini che non possiamo tenere e tutti quanti abbiamo le radio modificate, anche i radioamatori hanno cose che non possono tenere lo stesso, quindi non sono controllati come siamo controllati noi, qui tutti abbiamo qualcosa in disordine, tanto bisogna solo saperle farle funzionare, io la penso così. Poi il giorno che verranno qua, che mi portano via tutto, va bene lo stesso così, però io la radio omologata ce l'ho, la uso, non disturbo e basta, ascolto perché sono un SWL e basta, mi faccio i fatti miei, boh, tutto lì. Eia, ma questo qua voleva giustificare il discorso che io una volta feci a una persona facendogli capire che nelle frequenze dove lui si vantava di andare ci andavamo tutti, però bisogna fare le cose con la testa, cioè falle ma non te ne vantare, fini in ira, capito? Per il semplice fatto che se poi vengono a controllare per colpa tua, vanno a controllare anche gli altri, e controllando anche gli altri creano problemi anche agli altri, magari per cose più piccole, per piccoli cadaveri che tutti abbiamo nell'armadio. Però vai a farglielo capire, molto spesso la gente non ragiona col cervello, ragiona col culetto e quindi ciccia, e allora basta lasciarli dove sono. Ehi Arturo, ma guarda, io li ho sentiti qualche CB parlando dove non deve parlare, l'ho sentito, quindi lasciamo stare, va. Un'altra cosa, intanto è inutile dirlo perché lo sanno, determinate frequenze, chi ci parla in quelle determinate frequenze lo sa che tu qualche volta ci capiti, però dico, se tu ti metti al radioascolto su due cose, trasmettendo da una parte e trasli selettive e cacchi vari, alla fine vengono a casa e ti rompono le gambe, poi non ti puoi lamentare, dice ce l'hanno tutti con me, peggio per te che fai queste cose. Bravo, ma è così. Ma comunque, altro io, diciamo che va bene, per ottenere questa radio sì, è una cosa buona che tu hai preso la patente, ma sono abituato io a parlare come mangio, capito? Quindi non sarebbe neanche il mio linguaggio di stare proprio con loro, capito? Non mi piace, devi stare sempre con un attivo, non è il mio gusto, là, non è il mio piacere stare lì. Ripeto, io non ho sentito, ne hai sentito tu, ohia, altro che parlare come mangi, c'è gente che davvero parla come fa altro, per carità, perché ne ho sentito di gente, ma in 6 metri, in cose, sui 40, per carità. E vabbè, ma io devo essere sincero, non è che sto sempre ascoltando a loro, a chi non me la fuggi nulla. Ti ripeto, sono sempre le solite persone e i soliti discorsi, quindi non è che sto lì a stare sempre attaccato con l'orecchio nel culo di loro, quindi non mi interessa. Andà bene. Quindi tu stai usando adesso che cosa, Anto? Io sono con 140. No, mi sembra che tu ne hai uno che schicchia forte, così è. Che cosa? 140, tu mi sembra ne hai due, così è. Che uno è più forte dell'altro, mi è sembrato di capire così, Cappa, ma quello l'avevo venduto perché aveva avuto problemi. Ah, perché allora, l'altro era molto più forte comunque di questo. Lo so, questo è regolato abbastanza al minimo, Sì, ma io mi ricordo che avevo i due, e uno andava un po' di meno dell'altro, ma comunque va bene come radio. E cosa volete prendere come quadro in banda? 1004. Ho capito. E la verità a me piace il 796, aspetta, il 598, lo Yaesu che cos'è? 598? Suvisi, o Ico. Yaesu 598, però voglio prendere la versione da base, che 596, se non mi ricordo la sigla, ti dico la verità. Comunque è quello che ha tutto, un quadribanda che ha tutto, per quanto mi hanno consigliato invece dell'Icom il 706 MK2, che non è più in produzione, ed è bellino anche quello. Positivo, ecco, le antenne sei già messo a posto? Cattivo, c'ho un'antennina UHF, e poi della 27 ne ho quante ne vuoi, dimmi un'antenna, ce l'ho. Vero. Guarda, c'ho 4 Ringo, una mini Grand Play, un Boomerang, lo stesso, un mazzo. Dopodiché c'ho la BA27L, che è quella che è l'Energy, che è quella che mi hai dato tu. Poi c'ho la Sirio 2008, la Mantova Turbo, boh, cos'altro c'ho? Qualche altro, anche di Polo, di tutto. Ma che fai in casa? Ma deve fare altro che tutte le antenne? E poi io, aspetta, oltre a un Mac, ovviamente a Lucca, c'ho una 3 o 4 antenne da macchina, di quelle della Sirio semplici. Cosa mi serviva a me, Antonio? Uno stilo della PLC 800. PLC 800, te lo dico che me l'hanno rubato alla macchina a me, quello della Sirio PLC Minox S. Già lo vorrei trovare, che è l'idiota. Me l'ha svittato e si è portato via bobino e stilo. Io, poche parole, ce l'ho, però sicuramente l'hanno tarata su un camion, mi hanno tolto 4 cm di stilo, che l'ho provata sulla mia vettura e non va bene. Invece ho provata quella di un amico che diciamo che è originale, è da zero stazionario, invece la mia da proprio, le mancano quei 4 cm di stilo, capito? è quella che c'ha l'avvolgimento, la molla fuori. Come la molla, no? C'ho la basetta come la 2001 e l'aggancio come la 2001. No, ho capito. No, se ne vuoi, guarda, ne ho un mazzo di quelle della, che poi non sono Sirio, era della Intec. Della Intec. Ah, poi c'ho vari disconi. Una giubbocca di ferraglia. Sì, se ne vuoi. Se ne siete regalendo, sì. O se ne stai vendendo a poco prezzo, no? E guarda, al pari di regalartene, che effetto. Ma perché, cosa ti serve? Oh, un attenino di macchina seria mi serviva. No, serie queste non sono serie. Se ti serve per trasmettere già andava bene. Ma seria non è seria, perché sono quelle. Era la base vecchia della. Se sto guardando adesso, della cosa, della Intec. E prendete quelle che hanno la bobina di carica che è quanto un pollice di dito, però non un pollice inteso come misura. Sì, sì, ho capito. No, lo stilo, ascolta, invece lo stilo dell'antenna più grande che c'hai di lì, di quella sempre vettura, quanto è lungo? 1,5 metri. Non va bene. Anch'io ne ho 4 o 5 di antenne, capito? Ne ho 4 o 5. E quella che va bene è una su. Luca, cosa che stai facendo? PC, cosa vuoi fare, Luca? Dica di 20 cieco, Luca, non ti ducca. Massimiliano, dai, che sono in trasferimento a altro QTH, ci sentiamo dopo se coincide, se rimani qua. Andà bene, ciao a tu, mi ha fatto piacere, dai, entra ogni tanto, ho sentito che domani siete di riunione. Ragazzi, sono di riunione perché io non vado, fornisco l'apparato, la parte logistica a livello di gazebo, a livello di tavola, a livello di altre cose che devo prestargli, però non ci sarò. Io neanche. Io posso partecipare se gli serve qualcosa, come denaro, diciamo, ecco, per queste marche da bollo che vogliono fare, però io domani non posso essere presente lì a quel lato. No, ripeto, io non sarò presente per ovvi motivi, per non condivisione delle stesse idee con alcune delle persone che ci saranno. Te l'ho già detto, lo ribadisco, però per amore della 27 sono disponibilissimo al prestito senza nessun problema. Va bene, dai, ok, va bene, ti lascio andare, Antonio. Buona serata, buona continuazione di giornata, alle prossime. Ricambiato al 100. Luca, fai da bravo, Lu. Ciao, Lucrezia. Ciao, Gianna. E allora, mi stavo guardando i video a vedere se c'era qualche cosa di bello. Ma mi so qua al computer, ma niente di che, leggendo le chat, ascoltando musica, poco di tutto, vacante. Ma tu che chat vai? Perché tutte le chat che faccio ti danno praticamente uomo vuole incontrare donna, roba di genere, a me non mi interessa, diciamo, a me mi interessa chattare, non quelle chatte. Sono sempre su Pantac, già. Pantac, dove hai cantato, te ricordo una volta, sempre lì. Ma sempre su Pantac? Yes. L'ha pagato. Anni dubbio. Va, canto me. Stavo chiamando, non c'era il telefono. Chiamando? Se il telefono è qua. Ha riposto un bambino, mi ha detto che è sceso giù. Ah, non mi ha detto niente, sono andato a aiutare, mia moglie che è arrivata con la spesa, aspetta un attimo. E allora aspetti, chiamo. Ciao. Oh Bonio, ci sei? Ascolta, non risponde. Tagliamo già, dimmi tu, non c'è problema. Qua io prima di passare a casa sono passato lì. C'è un piccolo gruppo, ma non dovrebbe essere musica a metallara. Poi dimmi tu, non c'è problema. Cosa c'è metal? No, non è cosa metallara, ci sono delle ragazze che si vestono da Babbo Natale e fanno musica così dal vivo, non è roba metallara, così mi hanno detto. Poi dimmi tu, scegli tu. Pico vero farà due. Come vuoi tu già, come vuoi tu, a chi si può chiamare? Se qualcuno ne ha voglia di là. libe c'è qualcosa insieme, che si può chiamare? Io altri numeri non ne ho. Lo so chi c'è, è un cifro. Bisogna vedere se ne ha voglia quello. Speriamo che anche lui non tolga scuse. Provo a chiamarlo, ve la dice. E voi tu già, per me non c'è nessun problema. Vedi un po', io mi sa che quello di Loncio devo cercarlo, forse ce l'ho anch'io. Faccio portare il telefono a mia figlia. Mi chiamano. Beh, non squilla neanche il telefono. No, risulta occupato, a me risulta occupato. Tu prova a fare un numero, perché quello che io te lo ripeto, il numero, io guarda, sto facendo questo numero qua. Vabbè, no, non te lo posso dire qua. No, aspetta che provo io allora. Esce con 210, eccolo qua. Vediamo un po', aspetta. Clicchiamo, vediamo un po'. Mi sa. Aspetta. Ehi, sta squillando già, senti. Squilla, squilla. Avevo sbagliato il numero. Non lo so. Perché l'ho scritto il numero, l'ho scritto. Ma se te l'ho ripetuto il numero, mi metto che era quello. Vada sul servizio di segreteria telefonica. No, adesso squilla ma non risponde. Così faceva a me. Così faceva a me, sempre così era. Cosa fare? Antone, non so che dirlo. Aspetta che provo a cercare GHL. Eccolo qua, prova a chiamare a quel trodione a vedere cosa dice. Chiama lo scorreggione. Scorreggione, dai, già siamo lì, vediamo un po'. Fa Napoli, adesso vediamo un po' cosa. Se risponde anche lui, vediamo un po'. Niente già, non dice che non può venire, ci sono degli imprevisti e non c'è, dice neanche domani per piazzare segni. Ho capito. Vabbè. Allora Antonio, cosa facciamo? Ma per andarci qui in pizzeria, io non aggiungo magnato per andare in pizzeria. Se ti vuoi mangiare qualcosa, comprate la faccia, aspettando, sono le 11:15, qualcosina me l'ho mangiata. Poi se vuoi compagnia, problemi per me non ce ne sono, e vai tranquillo. Come vuoi tu, o vuoi salire tu a Osi, io scendo a Sassari, è uguale. Non c'è nessunissimo problema per me. A te la scelta. Ma fa una cosa, tu scendi a Sassari, poi prendiamo la macchina mia e andiamo dove dobbiamo andare, aiuto. E io li vado a ciappare. Ci ho fatto a casa, non lo sai dove abita. E io ci ho sconsegnato un sacco di volte lì. Ti fermi lì sotto casa e poi la macchina te la faccio mettere in cortile. Perfetto, allora attende il passo, va. Quanto ci metti? E così mi preparo. E quanto ci metterò? Un quarto d'ora, dai, io vado piano. Va bene, va bene. Mi do una preparata e fra poco la famiglia lo sai. Quale famiglia? Il nome, se no te mi faccio aspettare io giù, ti aspetto io giù, cosa faccio? Fai così, dai, già ti affacci tu ogni tanto, già vedi la 1 bianca. La 1? Ah, la panda. Panda, sì. Ehi, non c'ho la panda già, ce l'ho già da quasi 4 anni. Ah, io stavo pensando alla panda tipo vecchio. Vabbè, là, Antone, facciamo così, là. E così poi vediamo un po' qua a Sassari che cosa c'è, là. Andiamo, già lo so io dove andare, più o meno. D'accordo, dai. Allora mi lavo i denti, sono guai, e passo. Bene.